varo odierno è una cosa importante, perché intanto il varo della nave più grande mai costruita in Italia, perché è una 141.000 tonnellate, un traguardo tecnologico di altissimo livello. Per quanto riguarda la situazione della cantieristica, permane la crisi come tutti i settori. Noi rispetto agli anni d'oro del 2007-2008, quest'anno penso che finora sono sul mercato ci sono state soltanto due navi da crociera extra lusso che ha preso la Fincantieri dai Viking, e un traghetto innovativo con una propulsione nuova che ha preso anche la Fincantieri per lo stato del Quebec in Canada. Ecco, questa è la situazione. Cioè, noi oggi siamo in una crisi profondissima, però con un'azienda che riesce a prendere tutto quello che il mercato presenta. Supportata comunque da una semestrale che ha dato dei numeri positivi. Ebbene, lei ricorderà che naturalmente noi i compiti a casa, come si dice oggi, è una frase abbastanza usuale, l'abbiamo fatti prima. Abbiamo cominciato nel 2008, nel 2009, nel 2010, quando abbiamo visto che la crisi stava esplodendo, abbiamo cominciato a preparare un piano industriale di adeguamento della capacità produttiva alla nuova domanda, e abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare con una battaglia sociale che, come le ricorderà, non è stata indolore, insomma, non è che l'abbiamo fatta a cuor leggero. Proprio di questo io volevo, come dire, soffermarmi un po' di più, perché poi il piano di riassetto nel tempo ha cambiato un po' prospettiva. Allora, il nostro piano finale era il piano iniziale, che tutti conoscevano, lo conosceva il sindacato, lo conoscevano le istituzioni locali, ma naturalmente quello che si dice nei tavoli riservati è poi quando viene detto all'esterno assume dei connotati che sono completamente diversi, e quindi ci siamo trovati nella situazione di dover partire con delle enunciazioni particolarmente dure. Abbiamo posto il problema di Castellammare e di Sestri, che avevano delle deficienze infrastrutturali enormi. Bene, se non l'avessimo detto che avremmo chiuso quei cantieri, io sfido chiunque a dire che si sarebbero affrontati quei problemi infrastrutturali che non si erano affrontati per anni. Se non avessimo detto che avremmo chiuso Riva, non avremmo fatto quello che poi abbiamo fatto, cioè l'unificazione dei due cantieri, Riva e Muggiano, che sono a 50 km di distanza l'uno con l'altro, e che adesso funzionano come un cantiere solo. Questa è la verità storica.